rimorchiare le ragazze sul lungo lago. Questo posto è il paradiso in terra, eh? Zucchero filato a nord-est, guarda come lavoro. Mary! Giusto? Sei Mary? Perché non ti impicchi, stronzo? No, aspetta, io... Okay.